Have you seen that before? Too late. Bene, seconda parte di 451 frammenti sonori, recuperando Alex, no, anzi, quale Alex? Qua non si tratta di nessuna Alex, ma si tratta di ben altro progetto, visto che abbiamo recuperato dalla prima parte Sela e Tant. Alex era Alex Hamburger, invece, che faceva sempre parte comunque di Vibro. Questa appunto parte di 451 frammenti sonori, che poi in realtà è una parte nel la prima parte è dedicata a Vibro, o piccole, o anche per meglio dire piccole enciclopedie del rumore. Questa appunto è la prima sfogliata, se vogliamo. Siamo partiti da Zev, con appunto la Z, il nostro caro strumentista americano, insieme comunque a Pita. Quindi, volendo, i giochini poi si mescolano, e quindi ci sarebbe anche di mezzo la P, ma in realtà poi l'utilizzeremo magari per qualche parte seconda o terza di queste enciclopedie del rumore. Qua 451 frammenti sonori. Alla V abbiamo trovato Vibro, abbiamo ascoltato il numero 1 per buona parte, e con Sela e Tant abbiamo appunto finito e tan, anzi, per essere insomma più corretti in termini di lingua francese. Abbiamo appunto concluso la prima parte, poi l'abbiamo e anche la prima vibro che abbiamo appunto utilizzato questa sera, utilizzando poi all'inizio di questa seconda la terza, abbiamo ascoltato Kinglet, artista multimediale, come d'altronde Selael Etan, e con Kinglet si va a trovare quel mondo che spesso abbiamo esplorato qua a 451 frammenti sonori, un mondo rumorista che si rifà al suono della parola. In questo caso si gioca appunto su un fonema, Desert Blue, tratto da una scrittura appunto che viene rielaborata proprio facendo uscire una sorta di frequenza dal suono appunto del fonema ripetuto, e questo fonema viene tra l'altro anche espanso in termini anche uditivamente insomma chiari dentro appunto questo pezzo There's Blue di Kinglet, dentro Vibro 3, che prevede anche non soltanto qua 451 di fatto come oggetto sonoro non lo prevede, ma di fatto lo porta a compimento, Alan Dunn e Jeff Young, due guastatori di New York, anch'essi si adoperano con una sorta di sonorità rumorista dentro però un gioco, anche qua si può parlare di gioco anche perché c'è veramente il gioco al frammento, quindi ci interessa in particolar modo qua 451 frammenti sonori, non ci chiamiamo così per caso insomma o per sbaglio, frammenti in questo caso di Rachmaninoff che vengono curiosamente utilizzati dai due Dan e Young per creare appunto un rumore che potrebbe anche essere gradevole, non è soltanto tremendismo come tanti possono pensare e come anche abbiamo ascoltato nella prima parte, ma può essere anche un rumore curioso che va appunto a fantasticare in maniera giocosa su mondi possibili musicali, in questo caso appunto Alan Dunn e Jeff Young. Poi sentiremo Tonic Train, ma ne parleremo successivamente. Per ora appunto Dunn e Young che si divertono con il loro frammentismo, chiamiamolo così, su Rachmaninoff. Frequency was a very low frequency and it was going straight to her head. And we switched off the bag. It's gone. into existence. At any rate, every person has at his disposal an existence and a love. The problem is how to build a sensible structure from them. $25,000 a year on that. Educate them, train them, improve them. No chance. It just doesn't happen. It's a waste of money to actually keep pandering to them. 10 Asbos equals a Crasbo, which is a criminal antisocial behaviour order, and 10 of them might get you banged up. When you make glass, the flow process, you float molten sand, really. It goes through a long machine called a cannulier, and what that is doing is annealing the glass. So it's been known that if you don't anneal the glass, there's stress in the skin, and the stress causes it to break like that. So it's been known about ever since men made glass. When you blew glass bottles, if you didn't cool it slowly, the stress in the skin would be very brittle. Yeah, but if you cool it slower and slower and slower, it's more resilient. Tonic Train, beh, un suono veramente urtificante, quello della progettualità, direi piuttosto sperimentale, visto che si rifanno pure a due grandi musicisti, pionieri della musica elettronica come David Tudor e Gordon Mamma, poco ricordati probabilmente per le loro sperimentazioni dei 60-70 rispetto a altri chiaramente, e con appunto sia con Tudor che con Gordon Mamma si va a trovare quel particolarissimo suono in feedback di strumenti elettronici o semplicemente di aggeggi elettronici che appunto vengono manipolati attraverso il loro feedback, quindi una sonorità anche piuttosto astiosa, come avete potuto sentire, sonorità che vanno anche dentro una sorta di oscenità, di un'impossibilità quasi di essere udita e di essere messa in scena in quanto appunto un suono musicale. Questo però non avviene, una sorta di paradosso dentro il rumore che attraversa appunto la nostra quotidianità, le nostre città, quindi anche quello che potremmo considerare una volta probabilmente osceno a livello sonoro, come dire, appartiene oramai a un DNA urbano che conosciamo fin troppo bene, probabilmente con i grandi padri come David Tudor, appunto Gordon Mamma, era ancora qualcosa di assolutamente osceno, in quel senso anche i due personaggi non furono particolarmente conosciuti rispetto ai vari Cage, ai vari Reich, eccetera eccetera, che pionieri anch'essi delle sonorità elettroniche, ma sicuramente più conosciuti insomma degli stessi Tonic Train, che poi appunto rifacendosi a questi due grossi personaggi che citavo riprendono appunto quella strutturazione che poi si nutre anche di una particolarità del tutto originale, ovvero questi feedback originali, perché vengono trattati con questa sapienza, questi feedback di microfonazioni, di speaker, radio FM, mixer, effetti analogici anche di basso costo, di tecnologia molto infima se vogliamo considerarli tali, vengono trattati a livello live. In effetti Tonic Train è un live project che prevede appunto queste sorte di improvvisazioni su un feedback piuttosto sonorizzante, anche se appunto di magari gusto tremendista si potrebbe considerare tale probabilmente da parte di qualcheduno non avvezzo particolarmente al rumore, non da parte ovviamente del sottoscritto, ma posso anche sottoscrivere, come dire, per l'altro collega di viaggio Eliseo Scarpa e anche per quanto riguarda del nostro Lorenzo Albano, che cura la faccenda bloghistica di 451 frammenti sonori, che ricordo tra l'altro 451frammentisonori.noblogs.org, per quanti volessero appunto comunicare direttamente o indirettamente con noi per sentire le nostre trasmissioni, per vedere dei video legati appunto alle musiche che mettiamo e quant'altro. Poi l'implementazione è sempre di dietro l'angolo, sempre dentro la testa, e ogni tanto appunto riesce anche, come dire, a prendere forma attraverso questo blog. Da Tonic Train, quindi, con il loro live feedback super iper sonoro o ultra sonoro, forse per meglio dire, a Teresa Neuma, penso di averla pronunciata più o meno bene, visto che è brasiliana, la nostra Teresa si diletta in maniera divertente, quindi non più tremendismo, non vi preoccupate più, vi faccio divertire con un mix multimediale di sonorità radio, di field recording, di giochi sonori che prevedono una sonorizzazione globale, una sorta di globalizzazione che passa attraverso un patchwork piuttosto divertente, anche volendo una sorta di teatro musicale, visto che poi la nostra Teresa Neuma ha grossi riferimenti legati a Joseph Beuys, quindi dentro il Fluxus, o Paul Braschi, o Pina Bausch, oppure Max Neumann, sempre Max Neuhaus, scusate, è sempre dentro quel discorso del Fluxus. Per quanto riguarda Pina Bausch, invece, dentro il teatro danza, e questa sorta di invenzione sonora, appunto, la riporta anche a questi grandi maestri. Teresa Neuma con Trilas Urbanas, ci andiamo appunto a sentire questo patchwork decisamente divertente dell'artista brasiliana. Universitária, alto nível pra você. Tila, der er tila, der er tila, der er tila, der er tila, der er tila, der er tila, der er tila, der er tila. O ISPA, Semana de Artes Visuais do Recife 2004, é uma realização da Prefeitura da Cidade do Recife, através da Fundação de Cultura da Cidade do Recife. Nesta edição, apresenta palestras, oficinas e 40 intervenções urbanas com artistas plásticos de todo o Brasil em nossa cidade, na semana de 30 de agosto a 3 de setembro. A artista Teresa Neuma apresenta uma intervenção urbana em duas emissoras de rádio FM do Recife, transmitido durante suas programações, efeitos sonoros produzidos por palavras pronunciadas em alemão e por meio de teclas de máquina de datilografia, estas mesmas palavras que são apropriações de títulos de obras do artista plástico Joseph Beuys e do filósofo Walter Benjamin, ambos de origem alemã. Agora 11:03, bom dia! Rede Transamérica Pop. 7000 Eichen, 7000 Eichen, 7000 Eichen, 7000 Eichen, 7000 Eichen, 7000 Eichen, 7000 Eichen, 7000 Eichen, 7000 Eichen, 7000 Eichen, 7000 Eichen. A Transamérica tem o remédio certo para você que passa as noites em claro. Clube da Insônia. Todos os dias, às 2 da manhã, a gente faz de tudo para você ficar acordado e de bom humor. Clube da Insônia. Você também participa ligando 0300-789-1001 ou mandando e-mail insônia@transanet.com.br para concorrer a vários prêmios. Então não durma no ponto. As madrugadas mais divertidas do rádio, você curte aqui. Clube da Insônia, Transamérica. Eros, bar e decoração. Dia 11, com Asa de Águia. Daniel Mercury. Mangas de Menezes. E Banda Eva. Mais uma. Transamérica. Transamérica 11 em ponto. Rede Transamérica Pop. Bilder, Städte, Bilder, Städte, Bilder, Städte, Bilder, Städte, Bilder, Städte, Bilder, Städte, Bilder, Städte, Bilder, Städte, Bilder, Städte, Bilder, Städte, Bilder, Städte, Bilder, Städte, Bilder, Städte, Bilder, Städte. Transamérica. Que barulho é esse? Minha barriga, chefe. Já passa do meio-dia. Ora, Nestor, manda a dona Patrícia pedir 2 Bonaparte para nós. E agora? Que barulho é esse? É da dona Patrícia. Ela também não almoçou ainda. Dona Patrícia, o que que é isso? Peça mais Bonaparte. Coma com prazer. Bonaparte Express. Entrega em domicílio. 2102-6666. Breve na Zona Norte. Paralelo Prozess 1. Paralelo Prozess 1. Paralelo Prozess 1. Paralelo Prozess 1. Paralelo Prozess 1. Paralelo Prozess 1. Paralelo. Hoje no Borracharia Bar, Cida Maria e Banda e DJ Baiano. Borracharia Bar, em frente ao Hiper Casa Forte, 3267-5422. Começou a liquidação Tacaruna. Mais ofertas, mais descontos, mais lojas em liquidação para você. Liquidação Tacaruna, só até domingo. Venha antes que acabe. Nesta segunda véspera de feriado, Downtown abre suas portas com a festa Independência ou Rock. Duas super bandas, a tradicional Bola Gato e a revelação Maverick. Rock, Agito e Azaração vão rolar soltas a noite inteira. Então você já sabe, segunda véspera de feriado, o endereço é o Downtown. Festa Independência ou Rock, com Bola Gato e Maverick. Downtown, a sua casa do rock. Informações 3424-6317. Patrocínio Valentine's, Kaiser, Montila, Centauri e V-Sport. Censura 18 anos, mais uma. Magnética. Abfall, magnetischer Abfall, magnetischer Abfall, magnetischer Abfall, magnetischer Abfall, magnetischer Abfall, magnetischer Abfall, magnetischer Abfall, magnetischer Abfall, magnetischer Abfall. We'll be right back. Beh, sicuramente se dovresti incappare in queste sonorità e soprattutto in qualche concerto dal vivo di Sanò, beh, vi potreste particolarmente meravigliare di come il metal sia diventato qualcosa di assolutamente avanguardistico, con appunto Stefano Male, Greg Anderson, un rumore metallico che si fa drone, che diventa una sorta di veramente fabbrica dell'incubo, nebbie diradate che attraversano appunto sonorità, e forse in questo senso veramente diradano il metal, rendono un qualcos'altro e creano anche una sorta di drone che si voleva in nuce dentro già musicalità che abbiamo anche sfiorato più di una volta, 451 frammenti sonori, legata chiaramente a personaggi del passato, se vogliamo insomma anche citare i grandi maestri che probabilmente insomma potrebbero fare parte di prossime trasmissioni di piccole quindi enciclopedie del rumore. Questa nella prima parte sicuramente insomma la S Sanò ci sembrava il caso di riportarlo, ci sembrerebbe anche il caso di portare tanti altri, ma come dire, il gioco è anche abbastanza casuale se non addirittura frammentario. E appunto con Sanò si vanno a prendere quei droni che magari erano in nuce, come dicevo prima, dentro personaggi come Branca, come Chatham, droni che appunto provengono da quella grande scuola di Tony Corrad, quindi suoni che si allungano, si sviluppano in maniera vicina a un flusso nero che ci porta appunto a immaginare, ma non solo, anche a vivere, a creare stati piuttosto angosciosi, se non appunto conditi da momenti anche così talmente iperbolici, con queste urla belluine che vengono appunto dentro compressate e dentro questi droni, che diventa quasi un suono appunto osceno, quindi un andare oltre, che magari ci fanno anche superare così uno stato d'angoscia, magari per anche aprirci uno stato di estasi, così da estasi infernale, come dire, e come probabilmente piacerebbe a Sanò, visto anche i loro armamentari che non rigettano, anzi e in questo senso amplificano tutto il black metal, il doom metal, un metallo mai masticato tanto bene neanche dagli stessi metallari, fan appunto di nicchia di queste sonorità che provengono soprattutto da Burzum, personaggio insomma che è in galera per un omicidio, quindi nero che più nero non si può, continua a stampare meravigliose immondizie musicali, potremmo definire tale questi droni di grande cattiveria, che sicuramente hanno aperto la strada a Sanò da una parte appunto di quel metal completamente deflagrato e scoppiato dentro una sorta di bolla dronata, e quell'altra invece parte avanguardistica che appunto ricordavamo prima con Rhys Chatham, Glenn Branca, Tony Corrad. E se prima abbiamo fatto, e qualcuno un po' più attento, abbiamo anche passato la T di questo alfabeto così immaginario e sonorizzato del rumore, abbiamo iniziato con Zev, poi abbiamo dedicato una buonissima parte a Vibro, che sono queste compilation dedicate all'elettroacustica, al lo-fi e al noise appunto. Abbiamo trattato la prima e la terza, abbiamo fatto un omaggio ai grandi padri di quelle sonorità che potremmo definire industrial punk, non perché il punk c'entri niente come sonorità, ma perché diventarono materia sonora anche per punk avanguardistici alla fine degli anni 70 e per tutta quella generazione di wavers radicali, tremendisti. E quindi con Throbbing Gristle abbiamo toccato quel punto nodale della cultura rumorista, che potrebbe prevedere dentro 451, come dentro le enciclopedie del rumore tantissimi altri che magari appunto sono stati messi o che metteremo nelle prossime enciclopedie appunto di questo nostro rumore trattato qua dentro 451. Quindi Zev, Z, Vibro, V, Trobbingristel, T, Sanos, S, scusate se sono troppo didascalico, ma per arrivare a Nasuitund mi serviva appunto una sorta di indietreggiamento che stiamo facendo attraverso l'alfabeto, e stiamo arrivando in questa piccola enciclopedia a Nasuitund. Mira, yo tengo mis reservas. Yo del teléfono no quiero saber nada. Así que te arreglas tú lo tuyo y a mí me dejas con mis reservas. Pero oye, ¿tu trabajo es de contestar al teléfono? Oye, ¿reservas oye, o reservas? No. Gwert Silva, Amak. Cojones. Bueno, entonces dile a Vanessa de emplear otra persona para el teléfono. Bueno, entonces... Thank you. Oye, yo cuando estuve arriba, yo tenía que... Y tengo un montón de cosas que vienen. Y entonces ya no puedo más yo, ¿eh? Porque entonces yo ya estoy harta. Yo también, si tú estás harta, yo entonces estoy hartísima. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a encontrar como solución? Oye, porque ya, aquí no se puede, ¿eh? Tú siempre me estás diciendo de llamar a otra, de pasarle a otra, de que haga... No, de verdad yo no puedo coger esa llamada. Entonces dile a este señor o a esta señora, no sé. Dile. Ella, a mí me da igual. By and large. Yeah, silver and black. Are being. Pero si yo también. Outside. No, ya a veces contesto yo. Of 18 Street. No, yo no siento que serme. Black nip. Sí. And we do not understand. And it is. We talk.